Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, lo sapete quali sono le aziende, le tipologie di aziende che possono offrire più posti di lavoro, meglio pagati e di maggiore qualità? Forse le cucine dei grandi cuochi che ogni giorno imperversano in televisione, forse gli alberghi, forse i campi di grano che si parla tanto di agricoltura biologica e quant'altro. Nulla di tutto questo. Gran parte dei nuovi posti di lavoro e di quelli meglio pagati arriveranno dall'industria, dalle fabbriche, che sono le protagoniste di questa trasmissione che noi difendiamo con vigore e con passione. Le fabbriche creano valore aggiunto, creano know-how, creano sapere e sono alla vigilia di una grande rivoluzione che si chiama Industry 4.0, che metterà in gioco risorse qualificate e a maggior valore aggiunto. Oggi ne parliamo con l'ingegner Giuliano Busetto, buongiorno. Buongiorno a voi. Responsabile della divisione Industry di Siemens, che abbiamo scelto per farci un po' da Virgilio in questi cambiamenti del mondo delle fabbriche, anche perché Siemens ha due caratteristiche importanti. La prima è che assume. Solo la sua divisione ha fatto varie decine di assunzioni quest'anno e non è una cosa da poco, visto che adesso invece tutti fanno gli stati di crisi e mettono fuori. La seconda è che ha lanciato un programma per cui investirà 1 miliardo di euro nelle start-up. Allora, ingegnere, l'industria, in particolare adesso che c'è questa rivoluzione dell'Industry 4.0, è quella che crea più posti di valore e a maggior valore aggiunto. Giusto? Sono d'accordo, assolutamente. Siamo davanti a una rivoluzione, ma che come tale richiederà anche del tempo. Quindi noi pensiamo che i prossimi 10 anni siano straordinariamente importanti per le imprese italiane, per la manifattura italiana, e noi supportiamo le imprese nel loro successo. Quindi è con orgoglio che guido l'attività industriale di Siemens in Italia, e siamo riusciti anche ad avere un ruolo di preeminenza mondiale. Quindi davanti a noi, sempre all'interno della nostra società, abbiamo la Cina, la Germania, ma siamo davanti agli Stati Uniti. Questo grazie anche alla straordinaria importanza del mercato manifatturiero italiano e degli operatori presenti. Ecco, ma l'Industry 4.0, che è la completa digitalizzazione della produzione, di cui abbiamo parlato insieme a lei e al professor Bianchi nella puntata di sabato scorso, in che modo cambia l'aspetto degli skill professionali, delle competenze richieste, delle persone da assumere? Beh, innanzitutto dobbiamo pensare che riguarda profondi cambiamenti nei processi manifatturieri delle imprese clienti e come tale anche di noi che le serviamo. Spesso è dibattuto, noi facciamo corsi per il Politecnico di Milano, abbiamo un'ottima collaborazione, cerchiamo di aiutare anche gli studenti nell'avvicinarsi alla nostra tecnologia, ma alla nostra industria. Ma quello che noi pensiamo è che oggi abbiamo bisogno di uno skill professionale diverso, cioè l'ingegneria è ancora seconda le branche classiche, quindi chimica, automazione, elettrotecnica, elettronica. Abbiamo bisogno invece sempre più dei profili trasversali, quindi il nuovo ingegnere, quello che dovrà affrontare queste tematiche nel prossimo futuro, deve avere delle competenze di meccanica, di meccatronica, di automazione, di ICT, e quindi vorremmo poter aiutare le università tecniche nell'introdurre progressivamente dei corsi di laurea indirizzati alle tematiche di Industry 4.0, che riguardano quindi le tecnologie caratterizzanti, ma anche un profondo cambiamento del processo manifatturiero. Ecco, ma voi come Siemens, quante assunzioni avete fatto nell'ultimo anno? Guardi, il settore industry che ho l'orgoglio di dirigere, nell'ultimo anno e mezzo più di 100, un centinaio circa, usando ovviamente anche i contratti di apprendistato. 2/3 di questi sono ingegneri e una buona parte di questi sono ingegneri neolaureati. Abbiamo bisogno, ovviamente, abbiamo inserito anche delle competenze specifiche anche su alcune attività che riguardano ad esempio il controllo delle macchine utensili, che riguardano la tecnologia che noi abbiamo, anche non solo la parte software ma la parte anche hardware. Quindi abbiamo avuto bisogno anche di persone esperte, ma una buona parte è costituita da ingegneri nei laureati, in che branca, in che dipartimento, quindi molti elettronici, informatici, abbiamo assunto dei meccanici, ovviamente anche laureati in automazione. Ecco, dopo gli avvisi sul traffico e la pubblicità le chiederò dove mandare il curriculum e chi può farlo. Intanto restate con noi. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, stavamo parlando con Giuliano Busetto, che è CEO della divisione Industry di Siemens, delle assunzioni che loro hanno fatto nel settore industriale, che a parte Siemens o non Siemens è comunque quello che genera i maggiori posti di lavoro come quantità e anche i migliori ingegneri, ma anche operai specializzati, e gli operai specializzati qualificati del mondo dell'Industry 4.0 sono poi persone che in sostanza sono dei tecnici e che arrivano a guadagnare anche meglio di tanti impiegati. Allora, ingegnere, diamo un attimo l'indirizzo al quale scrivere per mandare il curriculum in Siemens. Benissimo, www.siemens.it/jobs-career. Per il futuro starete sempre sul centinaio di assunzioni? Beh, questo non è detto, adesso dobbiamo inserire quelle previste nel prossimo anno 2017. Confermo a lei che quindi il piano prevede ulteriormente l'inserimento di nuove risorse e ci sono due aspetti. Il primo è che c'è attrattività. Anche i giovani ingegneri, una volta forse più indirizzato verso società di software, adesso capiscono che il prossimo futuro dà loro grandi opportunità proprio dedicate all'industria manifatturiera e dedicate alle tematiche di Industry 4.0, proprio perché è trasversale. Ci sono tematiche riguardo l'automazione, la meccanica e la manifattura. Può anche lavorare un ingegnere gestionale piuttosto che magari un ingegnere delle telecomunicazioni, non è necessario essere un ingegnere meccanico. Assolutamente, per questo la nostra proposta è quella di avere un corso trasversale, e con i dettami di Industry 4.0 noi vogliamo abbracciare tutti i settori specifici delle lauree di ingegneria. Ecco, invece a livello corporate Siemens ha varato questo programma che si chiama Next 47, 1 miliardo di euro da spendere nei prossimi 5 anni per finanziare le start-up. Che cosa c'entrano le start-up con Siemens e perché un investimento del genere? Beh, Siemens è sempre molto attenta all'evoluzione della tecnologia. Abbiamo l'orgoglio di ritenerci una società tecnologicamente avanzata e come tale non possiamo non considerare gli ingenti investimenti in ricerca e sviluppo, che per il 2000, per l'anno in corso, hanno sfiorato i 5 miliardi di euro. E quindi da molti anni, da un ventennio, c'è attenzione nel cercare di aiutare, di capire e di investire in nuove tecnologie e conseguentemente anche in startup, ovviamente legate ai tre temi principali che riguardano l'elettrificazione, la digitalizzazione e l'automazione, che fanno da core di tutte le attività Siemens nel mondo. Come sapete, noi abbracciamo settori estremamente ampi. E poi c'è anche una convergenza dei vari settori fra di loro. Sì, io credo che la digitalizzazione sia trasversale, perché parliamo di mobilità, parliamo di infrastrutture intelligenti, parliamo di automazione, parliamo anche di healthcare. La digitalizzazione è un concetto che abbraccia tutte le divisioni o business unit all'interno di Siemens. Credo che sia significativo, è una iniziativa Next 47. Vorrei anche ricordare il perché di questo nome. Richiama l'anno di fondazione di Siemens nel 1847 e possiamo pensare che il fondatore a quel tempo è come un precursore di una startup, e conseguentemente vogliamo caratterizzare il futuro anche con i giovani, ma in generale con le startup, proprio per aiutare lo sviluppo della tecnologia. Ci saranno 3 uffici, uno a Shanghai, uno a Monaco e un altro a Berkeley in California, e per essere vicini a tutti i paesi dove Siemens è presente. Ecco, adesso vorrei dedicare il tempo che ci resta a parlare dell'Industry 4.0, che è un argomento che abbiamo già affrontato, ma bisognerebbe fare una trasmissione di 24 ore. A quel punto vorrei capire chi resiste. Ascoltate un attimo una scheda sulla esatta definizione di Industry 4.0. La rivoluzione che sta cambiando profondamente la manifattura mondiale è stata codificata in Germania e si chiama Industry 4.0, che in tedesco è Industry 4.0. In breve, è la nuova organizzazione aziendale conseguente alla totale digitalizzazione della produzione. Rispetto all'Internet delle cose, o Internet of Things, o IoT, rappresenta un passo in più. Su ogni componente manifatturiero ci sarà, o c'è già, un sensore che permetterà al componente stesso di dialogare con gli altri componenti e con la fabbrica prima, durante e dopo la produzione. Tutto questo genera una massa enorme di informazioni, i big data, che software appositi filtreranno e valuteranno, permettendo di prendere decisioni in termini di gestione, manutenzione e utilizzo del prodotto. Per gestire questi dati, ogni azienda manifatturiera dovrà trasformarsi in qualche modo in una software house e tutta la produzione sarà all'insegna del just in time. Saranno ridotte al minimo le scorte e i magazzini e ciò farà scendere i costi di produzione e probabilmente anche i prezzi finali dei prodotti. I componenti arriveranno solo quando saranno necessari per assemblare il prodotto e potranno essere assemblati fra loro in infiniti modi diversi e personalizzati. È la personalizzazione di massa che, insieme al just in time, è uno dei principali cambiamenti economici e sociali introdotti dall'Industry 4.0. Tutto questo fa capire come l'Industry 4.0 è un tema che non riguarda solo le fabbriche, ma l'intera società, il modo di vivere, la cultura. Pochi sanno che la rivoluzione dell'Industry 4.0 nasce da un atto di politica industriale del governo tedesco. È l'High-Tech Strategy for Germany, un processo di definizione delle linee generali manifatturiere del paese, processo iniziato nel 2006 e periodicamente aggiornato. Il comitato di uomini d'azienda, politici e studiosi che formula l'High-Tech Strategy for Germany nel 2011 ha individuato il fenomeno, lo ha classificato battezzandolo Industry 4.0 e si è posto il problema di come affrontarlo e trasformarlo in un vantaggio competitivo per le sue aziende. La risposta è una strategia molto precisa, costruita con il coinvolgimento di studiosi universitari e manager. Le due aziende tedesche in prima linea in questo processo sono Siemens e Bosch. Il gruppo di lavoro ha presentato una relazione al governo tedesco che poi è diventata la base di un programma di politica industriale. In pratica si dimostra che per cavalcare con successo Industry 4.0, le aziende tedesche devono diventare un unico gigantesco sistema integrato e si prospettano le strategie necessarie per farlo, che sono strategie politiche. Rieccoci di ritorno dalla scheda, siamo in linea con l'ingegnere Giuliano Busetto, CEO del settore industry di Siemens, e con lui parliamo di Industry 4.0. Ecco, ma secondo lei ci sono delle criticità, delle difficoltà nella diffusione della manifattura 4.0 in Italia? Ma sicuramente ci sono, opportunità ma anche rischi. Il rischio è che l'imprenditore che alla fine deve investire su queste tematiche deve essere lui per primo convinto e deve soprattutto far permeare all'interno della propria organizzazione anche come poi modificare i processi interni e soprattutto anche come acculturare, come definire anche un piano di sviluppo delle proprie risorse. Però incontro anche quotidianamente imprese, clienti, imprenditori che sono attenti anche in termini prospettici e ci chiedono bene di conoscere i temi pensando a successivi investimenti, successive acquisizioni, in modo tale che la propria azienda sia in linea con quelle che sono le aspettative del mercato. Ecco, Industry 4.0 vuol dire il cosiddetto cambiamento disruptive, che è anche un cambiamento che in qualche modo fa paura. Si può invece dare una visione un po' più tranquillizzante, soprattutto ai medi imprenditori, e parlare di un cambiamento incrementale che anche realisticamente percorribile? Ma io credo che lo sia. Dobbiamo anche qui distinguere che cosa vuol dire per una grande impresa manifatturiera. Ad esempio, recentemente abbiamo visto come anche dalla Germania hanno dato un importante premio di Digital Factory Award allo stabilimento Melfi di Fiat Chrysler, dove vengono prodotti le 500X e le Renegade, come esempio di un processo manifatturiero molto vicino, già con introdotti molti concetti di Industry 4.0. Però dobbiamo considerare anche che l'imprenditore della piccola media società, piccola media impresa, deve considerare come come propria quanto di Industry 4.0 caratterizza la propria produzione, che sia una macchina automatica, che sia una macchina utensile, che sia comunque un processo manifatturiero. Ne abbiamo tantissime in Italia. Io non credo che possiamo temere una rivoluzione che porterà benefici in termini di facilità, di personalizzazione della produzione, sarà più vicina a quelle che sono le esigenze del cliente finale e consentirà loro di mantenere una leadership nel proprio settore di mercato. Una cosa che affascina è che non ci sono più o non ci saranno più le classiche linee di produzione, le catene di montaggio, ma ci saranno isole di lavoro intorno alle quali i robot scorrono, quindi la catena di montaggio destinata in qualche modo a tramontare. Sì, no? Abbiamo proprio fatto uno studio su quello che può essere ad esempio il processo manifatturiero nel settore automobilistico da qui al 2030. Mm-hmm. E in questo caso è la macchina che diventa l'elemento caratterizzante, una macchina che dà informazione a robot o droni che oggi non abbiamo ancora in produzione e che lavoreranno la macchina, e non è invece il concetto catena tradizionale. Quindi prodotti che dicono alle macchine come fabbricarli, non è più il prodotto passivo, ma il prodotto attivo che dice alla macchina mi devi fare così e cos'ha. Con ciò, visto che il tempo è tiranno, sono costretto a salutarla, ma spero di riaverla nostro ospite. Arrivederci, ingegner Busetto. Grazie mille per l'attenzione.